Assolutamente sì, anche perché non è soltanto un fatto performativo. Chiaro che io ho lanciato una piccola provocazione per chiedere l'attenzione dei tifosi più sfegatati. Qui innanzitutto c'è di mezzo la felicità di una singola persona, di ogni singola persona che è irripetibile. Se non è felice questa vita, siamo rovinati. C'è poi l'aspetto, come posso dire, della tutela delle persone che non possono parlare. Io e Flavio ci siamo trovati d'accordo, vorrei ricordare perché è importante questo doppio approccio, che Flavio non solo è un ex rugbista ed è uno storico dello sport, della maratona, di tante altre cose, ma è etero, per cui abbiamo avuto un approccio assolutamente diverso alla materia e secondo me la ricchezza del libro, se c'è, è proprio in questo approccio diverso, addirittura anche dal punto di vista politico-culturale. Io, come noto, sono di formazione liberale, lui è di formazione di sinistra, è un collaboratore del Manifesto, quindi voglio dire, il tentativo è di parlare di questo argomento superando visioni troppo particolari, non annacquandole, ma mettendo a confronto due approcci diversi da tutti i punti di vista, sessuale, affettivo, storico, politico e anche di esperienze precedenti. Io volevo ricordare a proposito delle prestazioni la Navratilova, è stata probabilmente la più grande tennista di tutti i tempi ed è stata la prima a fare un coming out clamoroso che all'inizio le è costata anche molto in termini di soldi, sono state ritirate le sponsorizzazioni. Su questo gli etero che ci contestano dovrebbero un attimo soffermarsi per vedere che non sono tutte rose e fiori e che la discriminazione c'è ancora e come. Però lei ha tenuto il punto e quando ha lasciato lo sport, tutta Wimbledon, il campo centrale, le ha tributato un'enorme ovazione, non solo come più grande tennista di tutti i tempi, non solo come donna, ma anche come lesbica militante.